si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buona domenica a tutti. Quando sono le 8:34 minuti di domenica mattina iniziamo una nuova puntata di Si Può Fare e vi aspettiamo, cari ascoltatori, come sempre, al nostro numero verde 800 24 00 24. Carlo, Milano, Monterosa? Bello. Oggi, ieri è stata una giornata bellissima, però anche oggi inizia con un po' di sole. Pare che ci sarà un pochino di nuvolo, ma... secondo me regge il sole. Bello, ci, faccio anche le previsioni. Stiamo trasformando in Corazon, quello di Meteo, il nostro collaboratore che fa egregiamente, con tocchi di grande creatività a volte. Io non meteo. Lo faccio egregiamente, effettivamente, no, non me ne intendo di meteo. Piano però, piano ci arriveremo. Sì. Cari ascoltatori, è una bella giornata per manifestare. Vi aspettiamo, perché ci sono manifestazioni oggi? Oggi sì, c'è un flash mob in Piazza del Duomo alle 15 per i diritti civili, Cirinnà. Sì. Ma non diciamo solo cose relative alla nostra cara e amata città di Milano, altrimenti dicono che siamo milanocentrici. Vabbè, però insomma... È inevitabile. No, è vero, la manifestazione nazionale per i diritti civili è stata indetta per il 5 marzo. Molto bene, da qua partiremo tra poco perché parleremo niente po' di meno che di un tema scottante come può essere l'educazione sessuale nelle scuole. Scuole, almeno in Italia, può essere un tema scottante perché forse in altri paesi lo è di meno, come ci ha tra l'altro egregiamente mostrato una bellissima puntata di Presa Diretta qualche settimana fa. Poi insomma, parleremo di diverse cose, è stato dato il via libera al referendum e abbiamo la data, cosiddetto no trivelle. Ci interrogheremo se votare è sempre una cosa buona, se votare sì, votare no è una buona notizia, se sfruttare il petrolio in Italia oppure no può essere o meno una buona notizia. E quindi poi cerchiamo un personaggio della settimana, naturalmente. Certo che sì. Certo. Ma lo devi dare tu il primo indizio, perché è da tradizione. Noi cerchiamo tutte le settimane un personaggio, la domenica lo cerchiamo, la cui notizia è un personaggio legato alla notizia di questa settimana. Di questi ultimi 7 giorni. La prima notizia, il primo indizio, scusate, che vi vado a dare è questo qua. È un personaggio che è conosciuto nel mondo. Quindi, come sempre, aguzzate l'ingegno o le dita della mano per googolare qualcosa, esatto, ma non si può googolare, questo è il bello, come ci avrebbe insegnato il maestro. Comunque è vero che sono un po' stranito, ti chiedo scusa, sì. Tutta la settimana mi sono occupato del tema col quale adesso andiamo ad aprire, a parlare di unioni civili. Ammetto che seguire tutta la settimana tra il Senato, i senatori, tutte le dichiarazioni, è faticoso fare il tuo lavoro del giornalista, te lo faccio è molto risentire. Faticoso. Cominciamo con il riepilogo della settimana, vai. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Allora, cominciamo proprio da questo tema che sta monopolizzando, ha monopolizzato e forse monopolizzerà ancora un po' l'attenzione, almeno dei giornali, dei telegiornali. E anche un po' delle discussioni della gente una volta tanto, il tema delle unioni civili. Settimana prossima di sicuro, perché di è sicuro, stato slittato a mercoledì di settimana prossima. Magari una volta approvata questa legge, io me lo auguro personalmente. Si può anche parlare d'altro magari, si può parlare finalmente, anche d'altro, sono d'accordo. Perché altrimenti poi stufiamo. Succede che l'Aula del Senato ha votato a favore della richiesta avanzata di sospendere la seduta dedicata al DDL Cirinnà sulle unioni civili dopo la decisione del Movimento 5 Stelle di non votare l'emendamento canguro di un parlamentare del PD, Marcucci. Sono arrivato in fondo alla frase, ero stanco anch'io, perché ormai più o meno chi ha seguito ha saputo, ha capito, forse ha capito questa questione del canguro. Chi non ha seguito dirà: ma di che cosa stanno parlando? L'emendamento del canguro. Più. Però è molto semplice in realtà. Doveva esserci la votazione sulla Cirinnà, sono stati fatti 5.000 emendamenti, molti di questi da parte della Lega, molti assurdi, di quelli diciamo dell'ostruzionismo, volutamente. Ed è stato fatto un altro emendamento, il cosiddetto emendamento canguro Marcucci, che in realtà tecnicamente non è un canguro, che è un emendamento premissivo per cui tutti o la maggior parte degli emendamenti della Lega non sarebbero stati nemmeno discussi. Decaduti. Ricordo che questo tipo di emendamenti sono del tipo sostituire la parola unioni civili con unioni renziane, ok, non degli emendamenti interessanti sui quali discutere. Sì, a volte sono, cambiano delle virgole, eccetera. Ma detto dagli stessi della Lega, l'emendamento è, diciamo, la cosa dell'ostruzionismo è quello della Lega, l'emendamento Marcucci è anche quello un trucco, se vogliamo, va per detto saltare. Questo. Sì, per va saltare detto gli emendamenti. Che, l'emendamento canguro è stato ormai un escamotage parlamentare, però criticato da molti perché di fatto tronca tutta la discussione parlamentare. Sì, che non la tronca perché, tutta, nemmeno questo, insomma, è vero, però insomma ne tronca una parte cospicua, perché si tratta di un emendamento nel quale si riassumono i principi della legge, e siccome non si può votare due volte un emendamento su quella parte della legge, di fatto fa decadere ricordiamo che alcuni emendamenti, uno di questi emendamenti era la coppia deve decidere il figlio chi chiamerà mamma e chi chiamerà papà, quindi anche degli emendamenti offensivi, se vogliamo, è un gioco parlamentare sulla pelle degli omosessuali. Contro questo gioco parlamentare però si è scagliato il Movimento 5 Stelle. Risentiamo le voci, la voce in particolare di Airola, dottor Jackie del Mister Hyde, Alberto Airola, perché è sempre uno molto compassato, poi a un certo punto ha sbroccato completamente contro il canguro e lo sentirete. Io non me la sento di costringere il mio gruppo, perché non avrei neanche il potere, ma non posso chiedere al mio gruppo di tradire la possibilità di discutere con 500 emendamenti. Avete paura di 200 emendamenti segreti? Cosa c'è da aver paura? Qua i voti ci sono, loro lì ci sono, votiamola. Io è quello che vi ho sempre chiesto, votiamola. Ora, se veramente finirà che è colpa nostra, me ne assumerò la responsabilità, ma i cittadini fuori sapranno benissimo che non è andata così. Questo è un Parlamento che non si assume le sue responsabilità! Questo è un Parlamento che gioca sulla pelle delle persone e continua a farlo anche oggi! Assumetevi le vostre responsabilità! Vabbè, io Airola, se non fosse che adesso svelo un particolare, l'avrei fatto tutta la vita personaggio della settimana, però visto che ci partivamo come riepilogo della settimana non si poteva, però ha sbloccato completamente. Sì, e va spiegato però questo, perché è molto preciso quello che è accaduto. Io personalmente non imputo al Movimento 5 Stelle di non voler votare un canguro, che ci mancherebbe altro, io personalmente anche non so se l'avrei votato. La questione per cui Airola era in evidente difficoltà è che avevano promesso al PD che avrebbero votato questo canguro. Ora, al di là di tutto, una promessa la si mantiene, se non la mantiene è quello il problema. Quindi promettere di votare il canguro e poi in aula mettere in difficoltà il PD, che anzi più che in difficoltà l'hanno proprio messo in ginocchio, infatti hanno semplicemente chiesto un rinvio quelli del PD, questo è stato un comportamento scorretto. Poi dopo ognuno può decidere di votare o non votare il canguro, questo che ci tenevo a dire. Andiamo sul Papa. Il Papa è equilibrista. Perché equilibrista? Perché per questa frase, sentite. Poi quello che mi diceva, cosa consiglierebbe, votare o non votare, non mi mischio. Sulle unioni civili, non mi mischio in politica italiana. Un papa equilibrista perché sta in equilibrio tra la sua personale risposta alla domanda sulle unioni civili e tutto il resto, diciamo, della possiamo dire della potenza di fuoco del Vaticano, certo. Il cardinal Bagnasco, soprattutto cardinal Bagnasco, che invece su questa questione delle unioni civili sono abbastanza in prima linea contrari, e quindi diciamo sostenere non mi mischio a qualcuno è sembrato un po' è difficile capire se è un gioco delle parti. Sì. Se è veramente quello che pensa, perché se è veramente quello che pensa è un attacco frontale a Bagnasco, cioè dovrebbe quasi dirgli stai zitto perché tu non puoi intrometterti dicendo come deve essere il regolamento parlamentare. Se no invece è un gioco di dire io non mi immisco, perché tanto si immischia Bagnasco che è un mio uomo. Ancora il Papa sul candidato repubblicano Donald Trump. Una persona che pensa soltanto in fare muri sia dove sia e non fare ponti non è cristiano. No, no, no, no, allora, come annunciato, come anticipato, ci occupiamo di questa notizia che viene da Trieste, dove un progetto di educazione sessuale e di lotta al bullismo e all'omofobia è diventato il centro di una piccola polemica, piccola perché sollevata da una piccola quota di genitori di questa scuola, ma che hanno chiesto di sospendere questo progetto e insomma, naturalmente se ne sono occupati i giornali. Lezioni contro l'omofobia al Petrarca, genitori in rivolta. Il titolo forse un po' eccessivo, perché i genitori che hanno scritto questa lettera in realtà sono una ventina su più di 1000 allievi, quindi circa 2000 genitori, quindi circa l'1%, ma tant'è. Ne parliamo con Cesira Militello, preside del liceo classico linguistico Petrarca di Trieste. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, un progetto che si chiama A Scuola per Conoscerci. Che cosa c'è in questo progetto che non è piaciuto a questi genitori? Intanto le chiediamo. Dunque, per la verità, la questione è questa, cioè la polemica sollevata da questo gruppetto di genitori era legata al fatto che rivendicavano il fatto che dovesse essere richiesto un consenso informato da parte delle famiglie. Sì. Quindi, diciamo, la polemica era innanzitutto indirizzata alle modalità con le quali era stato proposto il progetto. Però nella loro lettera i genitori dicono anche che la motivazione per cui avrebbero voluto che ci fosse questo, diciamo, per conoscenza, un intervento da parte attivo da parte dei genitori è perché il tema è il tema sensibile dell'educazione sessuale. Sì, dal loro punto per la di verità, vista. Ecco. Dunque, cominciamo a stabilire che questo non è un progetto di educazione sessuale, nel senso che ne facciamo altri a scuola su questo tema, come da tradizione. Il progetto è tutto quanto focalizzato sulla necessità di prevenire e contrastare gli atteggiamenti di discriminazione e isolamento indirizzati ai ragazzi che sono o vengono ritenuti omosessuali. Quindi in verità la questione riguarda la tematica, anche se questo tema è stato inserito nell'ambito del piano dell'offerta formativa, che è stato condiviso anche con rappresentanti degli studenti e delle famiglie. Quindi è stato approvato dal consiglio, dico io per puntualizzare, consiglio dei docenti, consiglio d'istituto, eccetera, eccetera, tutte le varie procedure che si fanno in una scuola, è così? È proprio così, anzi, per essere più precisi, succede così. Ciascun docente propone un progetto. Questo progetto viene prima discusso in un gruppo di lavoro e nel nostro caso nel gruppo di lavoro erano presenti sia un rappresentante degli studenti che un rappresentante dei genitori provenienti dal consiglio d'istituto. Dopo la proposta si passa all'approvazione formale da parte degli organi collegiali competenti, che sono il collegio dei docenti che approva la proposta e poi il consiglio d'istituto. Il consiglio d'istituto raccoglie al proprio interno sia docenti che studenti che genitori. Nel momento in cui questo piano dell'offerta formativa viene approvato e quindi l'attività viene svolta diciamo in maniera condivisa e in particolare in questo caso viene svolta in orario curricolare, quindi tra le 8 e le 14, che sono l'orario in cui si svolgono le lezioni, allora non c'è motivo di risentirsi, anche perché vuol dire che il progetto è stato condiviso. Quindi poco rileva il fatto che il tema venga ritenuto da una minoranza sensibile o particolarmente delicato, anche perché è importante che le famiglie possano contare sulla, come dire, sulla capacità di discernere da parte dei docenti e da parte anche dei rappresentanti che sono stati eletti. Certo, i docenti sono pagati per quello, per decidere che cosa si insegna nella scuola, giustamente. No, è molto giusto ricordarlo, perché sembra che su questo tema improvvisamente crollino tutte queste certezze quando di solito uno affida ai professori le scelte per i propri figli. Facciamo una piccola pausa per il traffico, però, preside, e poi ci spiega meglio in che cosa consiste anche questo progetto A Scuola per Conoscerci, che ha sollevato una piccola rivolta di parte di alcuni genitori. Traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. E in nostra compagnia, siamo in compagnia di Cesira Militello, preside del liceo classico linguistico Petrarca di Trieste, che ha organizzato un progetto all'interno della scuola che si chiama Scuola per Conoscerci, che ha sollevato una reazione critica da parte di alcuni genitori che hanno chiesto spiegazioni, hanno detto ci vuole un consenso informato. La preside ci ha spiegato come e perché invece tutto è avvenuto attraverso il consiglio d'istituto, come si fa per tutti gli altri progetti, quindi diciamo rispettando tutte le regole. Ci vuole spiegare, preside, visto che è un insegnante, sicuramente ci riuscirà, in poche parole, semplicemente nel modo più distaccato possibile, che cosa prevedeva questo progetto per aiutarci a capire come mai ci può essere stata questa reazione critica. Erano due incontri previsti, uno con uno psicologo e l'altro con lo psicologo e un membro dell'Arcigay. Ci spiega? Sono previsti questi, diciamo, il progetto è fatto di più fasi. La prima fase prevede degli interventi didattico-educativi rivolti agli studenti. Sono due interventi di 2 ore ciascuno, in cui nel primo è presente uno psicologo e nel secondo è presente un volontario di Arcigay oppure Arcilesbica che racconta la propria esperienza. Il contenuto, diciamo, di questi incontri è legato al fatto che bisogna mettere in evidenza quali sono le situazioni che possono esporre a atti di bullismo omofobico questi ragazzi, proprio per prevenire questi atteggiamenti di prepotenza o di discriminazione nei confronti degli adolescenti che si trovano in questa situazione. Quindi questi interventi hanno un potere, diciamo, di descrizione e di coinvolgimento da parte degli studenti, anche per far sì che tra loro stessi nel loro comportamento quotidiano assumano un atteggiamento corretto e rispettoso anche nei confronti dei compagni che si trovino nella condizione di essere persone omosessuali. D'altra parte, questo progetto deriva da un progetto di ricerca all'avanguardia realizzato dall'Università degli Studi di Trieste lo scorso anno. L'Università di Trieste, sotto la guida della professoressa Pilamatti, ha condotto una ricerca nella quale è stata monitorata l'incidenza del fenomeno del bullismo omofobico in moltissime scuole della regione, costituendo un campione di ricerca tra i più all'avanguardia, perché non c'è nessun altro esempio di studio parallelo a livello mondiale. Infatti questa ricerca è in fase di presentazione in sede nazionale e internazionale. Ma le posso chiedere una cosa, professoressa? Sì, certo. Mi scusi. No, nel senso che quando è che torneremo un po' alla normalità, per cui anche quando si parla di questi temi non c'è subito un po' lo spauracchio, il terrore, alcuni genitori che si spaventano e quindi parte tutta... mi sto chiedendo questo, no? Glielo chiedo perché ultimamente vengo spesso invitato alle cogestioni e mi è successo anche a me già in 3 scuole, dove a un certo punto mi arriva una lettera, una mail della preside, dove molto gentilmente mi fa capire che la mia presenza non è gradita perché qualche genitore ha detto ma se viene lui allora serve anche qualcuno per par condicio. Io mi chiedo che parli di che cosa, che parli del fatto che gli omosessuali vadano uccisi, perché è un po' come dire se parliamo di nazismo serve anche che venga Goebbels per par condicio, e io non la capisco. Ma no, senta, guardi, devo dirle una cosa, almeno a Trieste è assolutamente un fenomeno di nicchia, cioè queste proteste sono veramente minoritarie. Adesso la faccio sorridere, questo stesso progetto è stato svolto lo scorso anno già in moltissime scuole della regione ed è tuttora in corso in varie scuole della regione e anche della provincia. È dove si raccolgono, diciamo, dei genitori che hanno dei punti di vista che sono anche magari in qualche maniera allineati su posizioni, su convinzioni assolutamente rispettabili e legittime, per le quali io esprimo la massima, il massimo rispetto. Che però si creano queste situazioni di conflitto che sono in qualche modo anche forse da rivedere sul piano della procedura. Ecco, tutto sommato io avrei apprezzato se questo gruppo di genitori che mi ha scritto e dopo ha ritenuto di inviare questa lettera al giornale, al locale, mi avessero chiesto un incontro personale, perché allora avrei spiegato direttamente, senza polverone e senza clamore, quelle che sono le intenzioni della scuola e il contenuto assolutamente positivo, importante e condivisibile di questo progetto. Ha ragionissimo, però devo dire che complimenti a lei, perché lei non si agita, invece ci sono altri presidi di altri licei che appena c'è un genitore che storce il naso subito dicono ma è meglio non farla che così non ho problemi. Invece lei mi sembra bravissima, che molto, molto tranquillamente dice ma è una cosa che facciamo da sempre, è semplicemente che adesso c'è un'attenzione un po' distorta. Voglio aggiungere una cosa che riguarda la lettera che hanno scritto questi genitori, che si appellano all'articolo 30 della Costituzione italiana sul diciamo dal loro punto di vista la libertà di educazione dei figli. Educare i figli, c'è scritto nell'articolo 30 della Costituzione, è un diritto ma è anche un dovere, e quindi se è un diritto da parte dei genitori dal loro punto di vista rivendicare, come dire, il fatto di essere in qualche modo loro a decidere quali sono le linee educative, è anche un dovere. Quindi l'educazione sessuale, la lotta all'omofobia e al bullismo è un dovere, che se ne parli nelle scuole, un dovere che venga fatto e che quindi se ne possa parlare nelle scuole. Bisogna tenere insieme tutti e due gli aspetti. Io ringrazio la preside Cesira Militello, abbiamo finito il tempo, grazie per essere mille. Stata con noi. Bene, grazie, buona giornata a tutti. E cari ascoltatori, ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica. E beh, ritrovati con Si può fare, insieme fino alle 10, siamo partiti alle 8.30, abbiamo intervistato la preside dell'Istituto Petrarca di Trieste che ci ha parlato del progetto, com'è che si chiama, Scuola per Conoscersi, se non ricordo male, un progetto, sì esatto, Scuola per Conoscersi, di educazione sessuale ma soprattutto di lotta all'omofobia e al bullismo, che ha sollevato la reazione di alcuni genitori e inevitabilmente immagino che anche gli ascoltatori avranno qualcosa da dire. Tra poco riprendiamo, adesso subito gli ascoltatori, tra poco anticipo, riprendiamo con il riepilogo dei fatti della settimana e poi parleremo della data che è stata assegnata per il referendum sulle trivelle, sulla trivellazione di petrolio in Italia. Però adesso, ascoltatori che abbiamo trascurato sin qua, andiamo con Michele che ci chiama da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sto parcheggiando, buongiorno. Io vorrei fare una premessa, cioè niente contro gli omosessuali nel modo più assoluto, però vorrei fare un ragionamento. In natura nasciamo l'uomo e una donna che alla fine, mettendosi insieme, riescono a fare una famiglia o comunque a procreare. Questo è l'inizio della vita, cioè si mettono insieme e nascono dei bambini. Se non ci fosse questo, neanche potrebbero adottarli gli omosessuali, perché non ci sarebbero bambini. Certo. Allora dico che l'educazione che va insegnata ai bambini man mano che crescono è rivolta soltanto a un'educazione normale e ad una famiglia normale. Poi man mano che crescono può succedere che ci sia una devianza di natura, può succedere che prendano altre strade. Però, mi scusi, non la voglio minimamente interrompere, però se la mettiamo già su normale e devianza, credo che sia un problema. L'omosessualità non è una devianza. Prego. Lei ha il suo punto di vista, certo. Io ho il mio. No, quando però si nasce, ma mi faccia finire il concetto. Prego. Non riusciamo ad andare avanti. Prego. Non chiamiamo la devianza, ecco. Chiamiamolo scelta di vita. No, non è una scelta. Non è una scelta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Figlio, quindi Gabardini, mi scusi, io prego. La stimo perché lei è una persona garbata e ma ci mancherebbe. Fa rima col suo nome, quindi mi fa piacere interloquire con lei. Però se lei non avesse una donna a fianco, potrebbe avere un bambino? No, ma non sto dicendo no, questo. Non può essere. No. Dico io, ma l'educazione delle scuole va indirizzata ad una famiglia normale. No, ma non è la questione di normale, però, mi scusi. Cioè, il fatto come ma giustamente... Ma la normalità è quella. Abbia pazienza, abbiamo due concetti diversi. Anche il forno a microonde non è in natura. Però io spero che in una scuola venga studiato il forno a microonde, o non vuole che venga studiato? No, certo, e quindi... ma però con un indirizzo, prettamente a spiegare che si nasce per fare un tipo di cosa, perché è quella che la natura ci dice. Ma... Poi dopo di quello se ci sono dei bambini che vanno seguiti perché hanno, la chiami come vuole, hanno un altro punto di vista, quindi non, la famiglia la intende. Sono omosessuali, ma non è che la intendono. Non è da discriminare, né da discriminare né da buttare, nel modo più assoluto. Sono persone normali che vanno comunque aiutate a vivere la loro vita. Io su questo non ci piove. Però dare per scontato che la normalità sia l'omosessualità, e mi scusi, io faccio fatica a crederci. Ma no, ma nessuno, ma però mi scusi, è semplicemente che sono entrambe normalità, è questa la questione, nel senso che l'omosessualità è una variante naturale del comportamento umano, questo è quello che ha deciso 25 anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi è semplicemente capire una cosa, o decidiamo che gli omosessuali sono uguali agli eterosessuali, non hanno un problema, non sono malati, non sono pazzi, non sono deviati, e quindi ci mancherebbe altro, e si può studiare anche la questione dell'omofobia, quindi che non bisogna picchiare e ammazzare gli omosessuali. Ma nel modo più assoluto. Esatto, ed è semplicemente questo di cui si sta parlando, perché giustamente lei, per me guardi, non c'è nessunissimo problema, nemmeno se dice normale per quanto mi riguarda, il problema è che non è che nelle scuole si insegna ad essere omosessuali, semplicemente si spiega che ci sono ragazzi che sono eterosessuali, ragazzi che sono omosessuali, ragazze che sono eterosessuali, ragazze che sono lesbiche, e questo è molto importante, deve essere inclusivo, e quindi è importante che a scuola lo si studi. Ciò detto, non è che sto dicendo che è meglio essere omosessuali, non lo affermerei mai nella vita. Michele, no, io ho qualche dubbio, mi ascolti, ho qualche dubbio nel proseguo della vita, quando due persone dello stesso sesso si mettono insieme e adottano un bambino, arrivato a un certo punto devono anche spiegargli cosa combinano, cosa fanno, come portano avanti la loro vita sessuale. Certo. Cioè, quindi piano piano quasi quasi si indirizza un bambino ad andare in un senso. Però guardi, in un senso che... Michele, io la ringrazio per questo intervento, possiamo organizzare anche una sessione speciale Carlo Michele, o davanti a un caffè o davanti a una birra o davanti a, non lo so, col telefono in mezzo vi parlate, e sono sicuro che forse potrete anche arrivare un giorno uno a convincere l'altro, ma sicuramente ci vorrà del tempo. No, ma non è una questione di convincere, e quindi direi aggiungo solo una cosa, chiudiamo qua. Grazie, sì, Michele. La chiudiamo qua, ma aggiungo semplicemente una cosa, perché era giusto la questione che stava accennando, ovvero è una paura sbagliata questa, perché pensare che se due omosessuali hanno un figlio allora anche il figlio sarà omosessuale è profondamente sbagliato, perché tutti noi omosessuali siamo figli di famiglie eterosessuali, quindi tutto questo è negato in partenza. Andiamo avanti con gli altri ascoltatori. Daniela che ci chiama da Firenze, buongiorno Daniela. Buongiorno a voi. Scusate, buongiorno. Ho la voce un po' fioca. Ci mancherebbe. Senti, io volevo solo partecipare per il gioco, sono un pochino meno intellettuale. Ma non si preoccupi, il gioco del personaggio. Comunque, quel signore che ha parlato prima di me, io non sono assolutamente d'accordo. Mentre parlava mi faceva entrare un po' di rabbia addosso, però è meglio lasciar perdere. È naturale che sia così, ci sono delle sensibilità molto profonde. Daniela, invece, per quanto riguarda il personaggio della settimana, ti sei fatta un'idea chi è? Secondo me è Ennio Morricone. Per quale motivo? Perché in settimana ho sentito che gli volevano dedicare una delle stelle a Hollywood per la sua carriera. Sulla Walk of Fame. Esatto. E in effetti poteva starci tranquillamente come personaggio conosciuto nel mondo, ma già capito, Daniela, non era lui a cui avevamo pensato. Grazie comunque per aver giocato mille con noi, e così ci ha fatto ricordare anche di Ennio Morricone. Roberto da Lissone, buongiorno. Buongiorno ragazzi, sono emozionatissimo. E come mai? Perché succede? Per il gioco. Per parlare con voi. Anche noi siamo un po' emozionati, noi, esatto, di parlare con gli ascoltatori. Guarda, ogni volta. Fatemi dire subito il nome, perché sennò non ce la faccio. Va bene, Il Dalai Lama. Perché? Perché in settimana è stato conferito la cittadinanza milanese. Mm-hmm. E di conseguenza è conosciuto in tutto il mondo. Beh certo, assolutamente. Non era lui il personaggio. Siamo rimasti interdetti così, perché ci chiedevamo la cosa, nel senso già che avuta questa cosa della cittadinanza. Io mi sembrava che l'avesse già avuta. Soprattutto diciamo che il Dalai Lama è più famoso diciamo, è famoso a prescindere dall'avere o meno la cittadinanza milanese. Però siamo contenti di aver dato anche questa notizia. Non era il personaggio che abbiamo scelto noi questa settimana, ma la ringraziamo moltissimo. E in effetti la cittadinanza milanese l'ha avuta davvero il Dalai Lama questa settimana. 3 giorni fa io me l'ero persa questa notizia. E ci richiami. Non si preoccupi, non si è emozionato. Allora, aggiungiamo un secondo indizio per quanto riguarda il personaggio della settimana. Abbiamo detto che è conosciuto nel mondo. E aggiungiamo, Carlo? È un personaggio storico. 800 24 00 24. Aguzzate l'ingegno, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, quello che sentite un po' convulsamente era David Cameron all'uscita della prima conferenza stampa dopo diverse ore di Consiglio europeo, un Consiglio europeo giudicato importante, cruciale, perché si affrontava questa questione dello statuto speciale della Gran Bretagna, che a giugno voterà un referendum per uscire dall'Unione Europea, una cosa che si vuole scongiurare perché si dice non conviene a nessuno l'Europa indebolirsi di un paese così importante, ma anche per la Gran Bretagna, forse sotto sotto, anche se sono così scettici, così critici nei confronti dell'Europa, rimanere ancorati ad un'area dove ci sono la Germania, la Francia e tanti paesi, tanta popolazione, un po' di peso specifico nel mondo, probabilmente conviene anche a loro. Posso dire una cosa stupida? Io non l'ho seguito e sono molto ignorante in materia. Confesso che nel momento in cui ho sentito che loro o hanno uno statuto speciale oppure se ne vanno, a me questa cosa un pochino mi ha imbestialito. Dico, ma in che senso, scusami? Perché tutti vogliono uno statuto speciale. Cioè, è come uno dei fratelli che dice, o a me mi date più paghetta oppure vado via. E i fratelli cosa direbbero? E vai via, Ciccio, cosa vuoi che ti dica? Pensa alla popolarità che hanno lo statuto speciale in Italia, non lo so, della Sicilia o anche delle province del Trentino Alto Adige. Sì. Non è una popolarità altissima. No. E quindi vale un po' lo stesso discorso. Creare disuguaglianze per leggi in un'Europa unita. Però, ripeto, non ho seguito, quindi magari ci sono dietro delle motivazioni validissime. Devo dire che mi spiace. L'altro capitolo che era invece al centro, come spesso accade in tutti i vertici europei di questi ultimi mesi, era il tema dell'immigrazione, con di fatto da un lato alcuni paesi come ultima in ordine di tempo l'Austria, che ha deciso di sostanzialmente bloccare i flussi alla frontiera del Brennero con l'Italia, quindi stabilire un tetto di persone che possono passare, un numero massimo di persone, di profughi e di immigrati che possono passare, una cosa che l'Europa dice è illegale. D'altra parte però l'Europa non fa nulla per affrontare in maniera corale questa questione dell'immigrazione, sia con investimenti nei pattugliamenti in mare, ma anche con regole uniche in tutta Europa per la questione proprio dei richiedenti diritto asilo. Le voci, in questo caso, di Renzi. Ormai non c'è chi non veda che la questione immigrazione è una questione europea, ontologicamente europea, intimamente europea, strutturalmente europea, e quindi la risposta non può che essere europea. Quindi se fai una strategia europea comune, è chiaro che le cose funzionano molto meglio. Quindi Dublino ha fallito, è sotto gli occhi di tutti. Che poi ci siano alcuni colleghi che per motivi comprensibili interni vogliono dire il contrario, questo sta nelle regole della politica, ma il dato di fatto è che oggi il Consiglio europeo e nei prossimi Consigli europei, perché questa storia della migrazione la vedrete anche al prossimo Consiglio europeo, la vedrete a quello di giugno, per anni si è fatto finta che non ci fosse, si è pensato di nascondere la polvere sotto il tappeto. 800 24 00 24. Ancora un blocchetto di voci di ascoltatori che, se vogliono, possono intervenire per commentare quello che abbiamo, che hanno sentito fin qua, che è stato mandato in onda sin qua, ma anche per rispondere al personaggio della settimana. Ripetiamo gli indizi: è conosciuto nel mondo, Carlo, ed è un personaggio storico. Alessandra da Trieste, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, io volevo intervenire a proposito della teoria del gender, perché ho insegnato per parecchi anni scienze umane. Prego. E all'interno delle materie, oltre che filosofia, pedagogia e sociologia, c'era anche antropologia, per cui noi cercavamo di far capire agli alunni la differenza tra natura e cultura. E dunque in natura ci sono quattro sessi, viceversa poi la cultura impone un certo tipo di comportamento. Per esempio, tra alcune tribù di Inuit, di eschimesi, pur nascendo con i genitali maschili, vedendo nella persona un'anima femminile, la si invita ad assumere un modello femminile. Quindi il ragazzo prenderà cura dei bambini, prenderà cura della casa, finché a 20 anni sarà libero di scegliere. In ogni caso, a prescindere dai testi di scienze umane che sono a disposizione nelle scuole, insomma, anche la psicologia, addirittura da Freud, ci dice che i più grandi uomini dell'antichità sono stati omosessuali e bisessuali. Quindi pensavo che questo fosse un dato ormai acquisito. Acquisito, sì, ma però invece non ho capito all'inizio quando dice la teoria del gender, perché siccome su questo si è tutto creato già del mito, la teoria del gender non esiste, e ci terrei a ricordarlo, perché sennò diventa un problema. In natura ci sono tutte le inclinazioni sessuali possibili e immaginabili, dopodiché attraverso la cultura chiaramente si entra in un format, cioè ti danno degli input precisi. Ma se non sbaglio, c'era stato anche un bellissimo libro della Maraini dalla parte delle bambine, per cui la mamma già a 5 anni dice alla bambina vai a preparare il caffè, e al bambino dice vai a prendere le chiavi della macchina in garage. Certo, ed è evidente che è il modo in cui viene spiegato. Ci tenevo semplemente a sottolineare, visto il momento, che la teoria del gender non esiste in questi termini. Esistono i gender studies, ma che non esiste, perché sennò si rialza tutto il polverone della teoria del gender. Grazie mille, Alessandra, grazie. E io ero un po' distratto perché stiamo cercando di contattare Mario Tozzi, che però non ci risponde al telefono, perché lui è uno dei promotori del referendum sulle no trivelle, cosiddetto. È stata data. Ce l'abbiamo? Tozzi, buongiorno. Buongiorno, eccolo qua. Buongiorno. C'è stato un attimo di fibrillazione. Allora, questa settimana no, non riuscivamo a prendere la linea, Tozzi, e quindi c'è stato un momento in cui temevamo di non poter fare il collegamento. Ma anzi, eravamo come degli studenti dicendo non c'è il professore, che bello. Allora liberi tutti, possiamo, esatto, scherzare. Tutti in cortile a giocare a pallone. Ci siamo riseduti subito. Allora, questa settimana è stata la settimana nella quale il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto sulle norme in materia ambientale, che indice il referendum popolare sulle trivelle, sì, per il 17 aprile. Quindi adesso abbiamo una data, non è la data che chiedevano i referendari, perché si chiedeva un accorpamento con le elezioni amministrative per favorire il passaggio, no? Il superamento del quorum, in qualche modo. Questa è sempre la solita storia. Quando ci sono questi referendum considerati fastidiosi o minori, anche quando c'è la possibilità, perché in questo caso c'era la possibilità, non ci si perita di spendere altri 300 milioni di euro pur di rendervi falliti. Perché costa di più votare in due date diverse, vero? Beh, questo certo, va detto. La cifra calcolata è questa, circa 300 milioni di euro in più. Ma io lo trovo uno spreco insopportabile di denaro in questo periodo, ma soprattutto lo trovo una forma, se non di contrarietà all'espressione popolare, che questo sarebbe troppo, insomma, effettivamente, di sciatteria istituzionale, perché non c'è motivo di considerare questi referendum chiesti dai cittadini, approvati dalla Corte Costituzionale, come degli elementi minori. Perché perché invece qual è la motivazione con la quale Alfano non ha fatto questo accorpamento? C'è una motivazione ufficiale? Ah, non ne ho la benché minima idea, perché quello che ho visto nei documenti ufficiali non c'è traccia di un particolare

E questa è la domanda che ci facciamo un po' tutti, perché è chiaro che l'obiettivo, come ricordava Tozzi, che è stato stabilito a Parigi, di ridurre la combustione fossile per contenere le emissioni e i cambiamenti climatici, d'altra parte sembra un po' il gioco del cerino, no Tozzi? Cioè, quali sono i paesi che devono rimanere, chi sono i primi che devono rinunciare al petrolio? Perché tutti lo sanno, tutti si guardano, però tutti continuano a cercare di sfruttare il petrolio, che comunque è una risorsa che fino ad ora ha dato una buona prova. Chi ce l'ha, beato lui, se lo può sfruttare. L'Italia ha questo giacimento importante in Basilicata, e quindi chi è che deve rimanere qua col cerino in mano? Noi. Però io direi che però l'Italia, che si è avviata, insomma, diciamo, in buona sostanza su questa via, perché vale la pena ricordare che in questi ultimi anni oltre il 30% dell'energia elettrica italiana è ormai prodotto per via rinnovabile, dunque si può fare, perché un tempo si pensava di non poterlo fare. Questo petrolio, che costa poi così poco ormai al barile, dunque rende più difficile abbandonarlo, ma forse questo non è del tutto vero, ma insomma si pensava un tempo che si sarebbe abbandonato perché sarebbe arrivato a costare troppo, adesso invece non è più così. Ecco, io trovo che non si tratta di rimanere col cerino in mano, ma di mettersi in un altro modello di sviluppo. Purtroppo, e questo lo voglio dire molto, diciamo, molto chiaramente, al di là delle volontà del Presidente del Consiglio del Governo, noi abbiamo un settore produttivo, quello dell'industria, il Ministero dell'Industria, cioè, che è rimasto legato a metodi vecchi, fatemelo dire, e sulle energie rinnovabili non danno l'incentivazione che ci dovrebbe essere o la riducono, e ripropongono gli inceneritori, e si va a scavare gli idrocarburi, ma insomma questa è una roba che non fa più nessun paese. Io non ho capito perché il ministro Guidi continua su questo tipo di via. Lo dico molto chiaramente in questa radio, perché vanno pure dette certe cose, cioè di che cosa stiamo parlando? È roba vecchia, non è una classe imprenditoriale impaurita quella nostra, ha paura di andare verso il nuovo. Ma infatti è molto strano tutto questo. Io mi scusi, le parlo da ignorante, però io ho vissuto tutta la vita da piccolino pensando che il petrolio ce l'avessero gli arabi. Poi improvvisamente il petrolio è stato descritto come il demonio e non bisognava più usarlo, e in quel momento l'abbiamo trovato anche noi, cioè gli italiani, e non ho più capito niente. Dico, ma com'è possibile? Perché appunto, come dicevo prima, nel corso degli anni il target, cioè l'obiettivo, il giacimento, che una volta non veniva perseguito se troppo profondo, perché costava troppo arrivare oltre i 5.000 metri di profondità, certo, si rimaneva sui 3.000, è diventato invece impossibile per le tecnologie. E allora anche in Italia, dove quei giacimenti c'erano, ma erano profondi, dunque come se non ci fossero prima che si trovassero queste nuove tecniche, sono diventati prospettivi. Giusto. Io ho partecipato personalmente alla ricerca di petrolio in Basilicata, perché quando da giovanotto, che ero appena laureato, ebbe un contratto proprio per la prospezione, cioè la parte più generale di ricerca petrolifera, so esattamente quello di cui si parla, e mi ricordo benissimo il momento in cui in uno di questi pozzi la carota, come si chiama il campione di roccia che viene su, era tutta sporca di nero. Tutti attorno pensavano che era una cosa che si era diventati positiva. Miliardari. E invece la regione Lucania non è diventata miliardaria manco per niente, perché in realtà non è che gli sono diminuite le tasse per l'energia o la bolletta elettrica è diventata ridotta. Gli ha cambiato una regione a vocazione agricolo, pastorale e turistica, gli ha cambiato una parte dello sviluppo in maniera insensata, a mio modo di vedere. Addirittura nacque, mi ricordo in quei tempi, appena fu data la notizia, c'era un bar che si chiamava Petrodollaro, in Lucania. Cioè, l'ha subito sbroccato. Appunto, dico, non lo so. E poi dopodiché appunto ha portato tutta la questione dell'oleodotto, dei 42 pozzi, cioè, insomma, è stato un impatto significativo. Vabbè, ormai quello c'è, non è che si dice di chiudere quello, ma di andarne a cercare nuovi, francamente, mi sembra che lo si debba. Prima di salutarci, perché a questo punto il capitolo, diciamo, trivelle l'abbiamo esaurito, io ho un'altra curiosità che vorrei. Posso darti del tu? Sì, diamoci del tu. Mario Tozzi, io non me la sento ancora, professore. Esatto, è un po' come se fosse il professore che tu incontri fuori di scuola, no? Anche se magari abbiamo la stessa età, però l'approccio è quello. Sì, ma sarò più vecchio io. Quindi, il professore Mario, noi come sempre andiamo a curiosare anche notizie nel mondo. C'è un allarme che arriva dall'American Association of Advancement of Science, che io ho pronunciato malissimo, ma insomma, sui robot che nel giro di pochi anni faranno sparire un posto di lavoro su due nel mondo. E noi ci siamo un po' preoccupati, siamo amanti delle tecnologie, del progresso, però tu hai scritto un libro, Tecnobarocco, sì, su come ci può cambiare la vita la tecnologia, che non sempre ce la migliora. Io mi attengo alle parole del mio collega, amico e vate Enrico Pagliarini, che nel suo programma 2024 sottotitola "La tecnologia ci cambia la vita", ma non è detto che ce la migliori. Come la vedi questa cosa dei robot? Ma io la vedo esattamente come la descrisse qualche tempo fa William Joy, Bill Joy, che è stato l'inventore di Java, dunque un tecnologo, Sun Microsystem per intenderci, e lui è stato il fondatore. Dunque qualcuno che se ne intende di queste cose. E lui ha detto, guardate che se continua così il futuro non avrà bisogno di noi. In che senso? Non che i robot guideranno il mondo, ma che noi avremo bisogno per tutte le operazioni, anche quelle più semplici, di macchine, appunto riducendo anche i posti di lavoro. Perché? Perché queste macchine saranno precise, instancabili e in qualche misura infallibili. Dunque faranno quel lavoro molto meglio di come lo possiamo fare noi, oggettivamente proprio. Dunque, in sostanza, governeranno il mondo perché? Perché sarà impossibile farne a meno. Dunque, o una ridotta oligarchia che le conosce, le farà funzionare, oppure invece ci saranno soltanto comunque pochissime persone che sapranno come, e nessuno ne potrà fare a meno, perché appunto mettiamo i lavori di catena di montaggio, in cui già questi robot sono particolarmente utilizzati, ma anche gli altri, anche dentro casa si parla sempre del robottino che ti pulisce da solo per terra, di quell'altro che fa. Dunque non è tanto io robot di Asimo, poi piuttosto le macchine, quelle ferme, non antropomorfizzate, quelle che ci faranno meglio i lavori e che dunque saranno preferibili per la semplice ragione che non si stancano, che fanno molto più in fretta di noi. Oggi le macchine, i supercomputer hanno un'intelligenza paragonabile a quella di insetti superiori. Si calcola che in poco tempo, lo dice anche Steve Hawkins, il famoso astrofisico, arriveranno ad avere l'intelligenza, chiamiamola così, tra virgolette, di animali ancora più superiori. A quel punto, semplicemente sarà meglio farlo fare a loro il lavoro, perché sarà più sicuro, ma noi avremo perso la nostra possibilità, non tanto decisionale, ma proprio evolutiva. L'avremo affidata a un'apparecchiatura extracorporea del tutto diversa da noi, che ci cambierà la vita, e noi non sapremo sempre come. Tutte queste parole, queste riflessioni, erano state fatte proprio da un signore che si chiamava Kocinski, mi pare, una bomber, che aveva scritto in America, molto tempo prima dei suoi attentati, lo ricordate, era una specie di luddista pericoloso, criminale, non ho nessuna simpatia per questa persona, esattamente queste riflessioni, perché vale la pena di dire che da dovunque si vada, appunto, dall'uomo qualunque, questo era un ingegnere, o da Bill Joy, quello che aveva inventato Java, questo pericolo è molto chiaro, e io pure lo denuncio nel libro, nel senso che l'uomo in qualche misura dovrebbe restare uomo, dunque con quello che ha e anche con i suoi limiti. Invece questa tecnologia estrema, questa turbotecnologia, sembra non farci vedere i limiti che abbiamo, ma noi non siamo né immortali né onnipotenti. Forse sarebbe bene rimanere nel nostro ambito per essere anche più felici nel nostro modo e non in un modo artefatto. Ecco, io chiaro, ti abbiamo seguito sin qua con una certa trepidazione perché hai citato cose che magari non conoscevamo, però abbiamo capito il concetto. È una questione molto aperta, molto filosofica, staremo a vedere, naturalmente non potevamo esaurirla qua. Grazie mille. Mario Tozzi, buona domenica. E condivido molto il discorso sui limiti, perché è dentro i limiti in realtà. Avrei voluto sentire senza cosa ne pensava Massimo Temporelli, che invece è il nostro uomo ottimista del futuro, che ci sarebbe stato, ci è mancato un po' forse oggi su questo argomento, ma insomma, cosa facciamo? Andiamo in pausa, dobbiamo fare gli ascoltatori, pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, andiamo con gli ascoltatori. Abbiamo Dario che ci chiama da Milano. Buongiorno Dario. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siete i miei presentatori preferiti, eh? Infondete onde gravitazionali di tranquillità. Grazie. Allora, la chiamiamo per spiegare che cosa sono le onde gravitazionali, prima o poi. È una cosa, penso che sia molto complessa per molti e sia per pochi. Sì, io infatti non l'ho ancora capita molto. Ma dove voleva arrivare Dario? A dire che cosa? Allora, uno volevo dire il personaggio, penso che l'abbiate più o meno già capito. E l'altro volevo solamente intervenire brevemente sul discorso dell'energia e del petrolio, affermando diciamo questo, cioè noi abbiamo avuto comunque già delle sperimentazioni fatte dagli italiani, Focardi e Rossi, che riguardano la fusione fredda, che adesso chiamano LERN. Sì. Qualcuno dice che il futuro del nucleare in Francia soprattutto potrebbe essere questo, quindi? E quindi il problema è che siamo stati talmente ciechi da non credere a investire qualche milione di euro, ma l'abbiamo data in mano a americani e giapponesi. Okay. Ma al referendum cosa voterai? Andrai a votare? Quello per le trivelle? Sì. Ma io non lo so se andrò a votare, io penso che valga la pena cercare, però bisogna cercare molto mirati, cioè non... Va bene, devi ancora, farti un'idea precisa sul referendum. Dario, il personaggio invece, scusa, che siamo un po' curiosissimi. Di chi è? Secondo me è Einstein, perché ha scoperto le onde gravitazionali. Ma quindi è una telefonata perfetta, avevi fatto il preambolo con le onde gravitazionali per poi dire il personaggio e in mezzo dare una notizia. Peccato, è tutto straordinario, meno il personaggio, cioè meno il nome, purtroppo. Che era quello della, che era quello della settimana scorsa, tra l'altro. Sei arrivato con una settimana di ritardo, Dario. Grazie comunque. Grazie mille. Grazie a voi. Buona giornata e buona domenica. Aggiungiamo un indizio. Diciamo che questo personaggio è un personaggio che ti tira su. Quindi, conosciuto nel mondo, personaggio storico. È un personaggio che ti tira su, ragazzi, e c'è anche dai, un po' di battuta qui. Eh sì, dai, qua ci siamo. 800 24 00 24. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. God, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. Ora, dai tempi di Viva Las Vegas di Elvis Presley, e vi ricordo che tutte le nostre musiche le ritrovate sul sito di Radio 24, la pagina di Si Può Fare, c'è la playlist di ogni puntata. Ne è passato di tempo, adesso non c'è più Las Vegas, no, meglio, Las Vegas c'è ancora, ma le nostre città si sono riempite di sale gioco, di videolotteri, di slot machine. La nostra non è una crociata, lo ripetiamo, contro le slot machine, ma ci siamo a un certo punto svegliati in città che sono state invase e abbiamo scoperto di avere il record in Europa, di avere malati di ludopatia, gente che sputtana tutto lo stipendio e la pensione nelle slot. Allora ci siamo fatti qualche domanda. Se la sarà fatta anche il sindaco di Verona, Flavio Tosi, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Che domanda. Buongiorno. Che in settimana ha decretato 8 ore di apertura massima per le sale gioco. Sono tante o sono poche, però, mi domando io? Perché non è che siano pochissime. Ma il punto è che devi prendere un provvedimento che dopo regga di fronte ai ricorsi al TAR, perché fino ad oggi, fino a qualche settimana fa, i comuni che avevano provato a ridurre gli orari che sarebbero in teoria liberalizzati avevano sempre perso in maniera sistematica, perché i TAR dicevano che la regolamentazione delle sale da gioco è competenza dello Stato. Sì. Dopodiché adesso le ordinanze tengono perché è diventata materia sanitaria, come avete ricordato voi, c'è la ludopatia, ci sono, tu fai nell'ordinanza come nella nostra, scrivi i numeri, cioè quante persone del tuo comune l'USL segue per ludopatia, quante hanno avuto colloqui, consigli, contatti con l'USL per la stessa problematica, e quindi a fronte di un dato concreto sanitario fai un'ordinanza che di fatto è di materia sanitaria. Quindi è quasi un escamotage per riuscire a prendere questa decisione. È il modo per riuscire a farla stare in piedi, perché certo, se tu facessi un'ordinanza di tipo commerciale, sì, dicendo ti riduco perché la motivazione è di tipo commerciale, la perdi subito. Quindi questo ha a che fare anche, scusi Tosi, anche con la... le 8 ore è perché se tu facessi 4 vai al TAR, perdi, e allora okay, se fai 8 okay, reggi. Però questa spiegazione che lei ci ha dato è un po' a che fare anche con la motivazione, che era l'altra domanda che le volevo fare, cioè lei perché vuole limitare un po' le slot, cosa che, su cui anche noi ci siamo interrogati come Radio 24 e per quanto riguarda Si Può Fare, ma è una forma di proibizionismo per motivi morali, oppure no, come mi sembra che lei dicesse, no, appunto, una forma di igiene pubblica, limitare un'attività che fa più danni che benefici, come bere e fumare? Motivi morali sicuramente no, e non è bigottismo, sono uno molto concreto. Dopo bisognerebbe agire anche sui siti online, perché quello dovrebbe essere il governo a farlo, perché solo quello lo può fare. Però almeno che non hanno orario. No, infatti. Però io come sindaco almeno cerco di contenere un problema che c'è. Io ho avuto una mia ufficiale della Polizia Municipale che c'è finita dentro, che ha avuto problemi sia ovviamente di bilancio economico, perché uno ci mangia migliaia di euro, sia problemi con la famiglia, perché poi certe volte le famiglie saltano quando viene fuori che uno dei coniugi si è mangiato migliaia di euro le macchinette. Perché era affetta da ludopatia? Sì, sì, sì. Ah. Andava a giocare in divisa, in orario di lavoro, ma non per che era in mala fede, perché proprio non, poveraccia non riusciva più a resistere alla tentazione di andarci. Cioè, la ludopatia esiste davvero. Sì, sì. Senta Tosi, io purtroppo abbiamo accumulato un po' di ritardo, per cui bisogna concentrare un po' i tempi. Io però non posso farle una domanda, anche non posso non fare una domanda anche sulla questione che è scoppiata in Lombardia, che riguarda il suo ex partito della Lega. Però l'imprenditrice Canegrati ha finanziato anche la sua fondazione, è quello che risulta almeno ai giornali. Lei è indagata perché si avrebbe ottenuto degli appalti illecitamente tramite corruzione. È vero che l'ha finanziata? Ma allora, io ho raccolto quasi 500.000 di euro, tutti regolarmente con bonifici, con diciamo trasparenza, tant'è che sono dati pubblici, per la campagna elettorale. All'interno di questo quasi 500.000 ci sono 10.000 euro che vengono da una società che eroga servizi sociosanitari. Sì. Ho saputo dopo che era della Canegrati, ho saputo dopo chi è la Canegrati, perché non l'ho mai vista né conosciuta. Evidentemente, insomma, bene o male ho un'organizzazione politica alle mie spalle, e quindi ci sono degli amici in Lombardia o in Piemonte che avranno chiesto di dare una mano. Ma è immaginabile però che lei stesse cercando di accreditarsi per avere degli appalti anche in Veneto in maniera illecita? Io non l'ho mai conosciuta, quindi non so come potesse. Non ha fatto in tempo? No, ti dico, mai vista riconosciuta, quindi non so come avrebbe potuto accreditarsi, visto che non l'avrei neanche mai parlato assieme. Diciamo che conveniva vincere la slot machine questi 10.000 euro piuttosto che accettarli da questa signora. Io non li ho accettati perché i bonifici arrivano, e ripeto, io non neanche guardo, perché io faccio campagna elettorale, c'è chi tiene i conti. Certo. Però il fatto un po' paradossale è che il bonifico arriva a due giorni dalle elezioni, quando si sapeva benissimo, perché i sondaggi l'avevano detto chiaramente, che io non vincevo mai, quindi ma una scommessa sbagliatissima. Quindi la Canegrati non ha mai lavorato a Verona? No, a Verona e nel Veneto, a Verona mai, da quello che so io neanche in Veneto. Va bene, un'ultima cosa Tosi, però gliela voglio chiedere in 30 secondi. A Milano lei voterebbe per Passera, credo, non so se l'ha già detto o l'avrà già dichiarato. Allora, io a Milano avrei votato volentieri per Maurizio Lucchi, se devo essere sincero. Secondo me era il candidato ideale per qualsiasi coalizione, cioè, nel senso, secondo me poi io guardo anche per quella di centrosinistra, così. No, guardi, se secondo me, se, adesso ormai era una battuta. Poi sono piene le fosse, ma se Renzi avesse candidato Maurizio Lucchi avrebbe fatto. Però adesso Lupi che non c'è voterebbe per Passera? Adesso stiamo vedendo se trovare una candidatura o sostenere comunque un candidato che non sia né quello del PD né quello del centrodestra, quindi una candidatura nuova. L'ideale sarebbe trovare una figura nuova, giovane, che abbia capacità amministrativa. Quello, quindi il feeling ideale con Passera è svanito? No, il feeling con Passera c'è, perché appunto c'è rispetto e stima reciproca. L'ideale secondo me è trovare una persona però per Milano. Va bene, uno nuovo. E invece scusi, a Roma Marchini andrebbe bene o Bertolaso? Ma le dirò, Bertolaso ha la vicenda giudiziaria aperta. Io stimo la di Bertolaso perché penso che dal punto di vista amministrativo sia una persona che ha grandi capacità. Ha il problema della vicenda giudiziaria aperta, che rischia in campagna elettorale di ritorcergli un po' contro, perché Roma ha vissuto un suo... Ma meglio lui o Marchini? Forse direi meglio Marchini da questo punto di vista, perché Marchini non ha nessun tipo di problema, l'esperienza amministrativa ce l'ha, quindi direi, dovendo scegliere a livello di opportunità della persona, più facile Marchini. Grazie mille, dobbiamo chiudere, grazie. Grazie sindaco. Arrivederci, buona giornata. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ci ha chiamato Marco da Torino. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno a tutti. Prego. Buongiorno. Allora, secondo me è Bialetti. Il personaggio della settimana Bialetti, perché? Famoso nel mondo. Sì. Ti tira su il caffè. E non mi ricordo altri indizi, perché in realtà mi sto vestendo per entrare al lavoro. Ti stai vestendo per entrare al lavoro, quindi intanto ci fa piacere che sei riuscito a trovare il tempo comunque per chiamarci, anche se ti stai vestendo per entrare al lavoro, nel senso che vai nudo? Ero in macchina, stavo mettendo la giacca, ma devo correre. Ah, va bene. Hai vinto, c'è stato l'applauso, hai vinto il premio, era lui il personaggio. Era lui. La notizia l'hanno sentita tutti, purtroppo, della morte di Renato Bialetti e della scelta di simboleggiare anche in quel momento. Di mettere le ceneri dentro una moca. L'ho trovato un gesto bellissimo. Sottolineando ancora una volta l'unione tra il prodotto di design e l'uomo, l'imprenditore industriale. Grazie Marco, siamo velocissimi, quasi in chiusura, dobbiamo ancora collegarci con Stefano Carrere, il nostro corrispondente, che per una volta non parlerà di borse. C'avevamo anche un'introduzione musicale, ma l'abbiamo tolta perché non abbiamo tempo. Ciao, buona Stefano. Domenica da Tokyo, bellissimo. Allora, qua abbiamo una notizia che ci ha veramente sbalordito. Un giornale che oltre a leggersi si pianta, nascono proprio delle vere e proprie piante. Come si chiama? Perché io non riesco a pronunciarlo. Si chiama Mainichi Shimbun, che ha fatto delle edizioni speciali proprio per sensibilizzare la popolazione ad avere una ulteriore maggiore coscienza ecologica. Quindi questa edizione che ha fatto di giornale, il quotidiano, praticamente si può trasformare in fiori, in piante. Praticamente la carta è stata fatta con una polpa, carta di giornale ulteriormente riciclata, mischiata a semi, e quindi questa edizione poi si può semplicemente lasciare, invece di buttare via nella pattumiera, si può lasciare in un vaso da fiori biodegradabile totalmente, mischiata già a semi, quindi nella composizione, e quindi dopo pochi giorni basta lasciarla lì nel vaso e poi si avranno i fiorellini. Ma è stupenda, io avrei una giungla in casa mia, che ho i giornali ovunque, mi sembra una notizia stupenda. Perché loro dicono che bisogna capire coi giornali ma anche agire, e questo testimone della sensibilità verde del Giappone, vero Stefano? Sì, assolutamente, all'interno di una campagna educativa viene lanciata soprattutto quando c'è un giorno speciale in Giappone, una festività nazionale, il 4 maggio, che si chiama Midori no Hi, che è proprio il giorno green, il giorno... Il 4 maggio ci ricollegheremo, allora Stefano, purtroppo oggi siamo andati lunghissimi coi tempi, quindi non abbiamo più tempo, grazie Stefano Carrer. Grazie mille. Grazie a tutti, Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Claudio Schiattone, Carmelo Loricella in regia, ci risentiamo sabato prossimo, ciao a tutti da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini, oggi alle 15 sarò in Duomo a Milano per un flash mob sui diritti civili. E a chi ci ascolta in podcast. Ciao.